8. Ascolta e controlla. Isabella e Ania sono in autobus e hanno molte cose da fare oggi. Ania deve passare in banca prima di andare al lavoro. La banca è in via dei Pini, vicino alla profumeria Bianchi. Isabella è in anticipo e può andare lei in banca per Ania. Anche Isabella ha molti impegni di lavoro. Deve venire un direttore di una compagnia di ballo per organizzare gli spettacoli della prossima estate. Lui vuole selezionare dei ballerini disponibili a lavorare per 2 mesi all'estero. Il direttore vuole fissare il giorno delle selezioni e avere dei consigli da Ania. È una grande occasione per i giovani ballerini.